Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La posata va posata. E nel frattempo le mandibole vanno fatte lavorare. Inizio sibillino quello di oggi. Intanto buongiorno da Nicoletta. Però voi non temete, l'obiettivo è sempre quello di trovare la strada per il nostro benessere. Pensate alla colazione di oggi, inghiottita al volo. Al pranzo, spesso consumato davanti al computer, e alla cena, troppe volte distratta. Non va bene così. Anche per chi vive una vita piena, ricca, è indispensabile darsi dei tempi anche per consumare i pasti. Vi ricordate quando la mamma ci diceva di masticare lentamente per aiutare la digestione? Almeno 20 volte ogni boccone, noi ci seccavamo, però lei non ci stava costringendo a un esercizio futile e perfino un po' sadico, ma ci aiutava, pensate, a tenere sotto controllo anche il peso. La ricerca lo dimostra. In linea con noi abbiamo il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, oltre che esperto del nostro Daily Lab. Buongiorno, dottor Speciani. Oh, buongiorno a tutti. Che bello aver sentito questa presentazione. Dai. Noi abbiamo ripreso proprio una ricerca che lei ha postato sul nostro Daily Lab riguardo alle posate che vanno posate. Sì, è questa cosa, tra l'altro, una cosa che insita nel nome, e quindi francamente il concetto di posata, e che uno non la considera mai, è proprio per questo. Cioè, noi dobbiamo imparare effettivamente, quando mettiamo in bocca qualcosa, a gustarlo. E questo è un altro dei trucchi, perché in genere quando parlo nelle conferenze dico sicuramente avrete avuto qualche nonno o qualche mamma, come Nicoletta adesso ha ricordato, che diceva mastica 20 volte, 50 volte, 33, eccetera. No? E invece uso una tecnica differente, che è goditi il cibo. Così intanto ricordiamo il piacere, perché ma proprio nel senso di assaporarlo, quindi di capire come è fatta, che tipo di farina, che tipo di trucchino. Poi dai, ci avviciniamo a Natale, dove ci sono le gare a dire quest'anno hanno messo più burro, meno burro nei panettoni, nelle colombe, nelle cose, no? Quindi cioè, il gustare è l'elemento importante. Perché è importante? Allora, abbiamo due elementi. Uno, la masticazione addirittura attiva la lipolisi. Questo uno dice cos'è la lipolisi? La lipolisi è proprio lo scioglimento del grasso, perché evoluzionisticamente, quando 800.000 anni fa avevamo a disposizione la possibilità di masticare, riutilizzavamo l'energia che avevamo accumulato, e quindi questo significa che quando si mastica c'è un processo attivo, descritto in maniera molto precisa, neurologico, che stimola lo scioglimento del grasso e l'utilizzazione dell'energia. E un altro importante, che la masticazione consente di controllare le intolleranze alimentari. Questo è importantissimo, perché i cibi dentro si diluiscono, è come se noi un po' quasi omeopaticamente venissimo rieducati, no? Come Mitridate, il vecchio re del Ponto, che prendeva piccole sostanze. Noi mangiamo magari il pezzo di pollo, poi dopo un po' che lo mastichiamo, in realtà il pezzo di pollo sono piccoli pezzettini di pollo sempre più diluiti, e impariamo come a tollerarlo in qualsiasi modo. Questo vale ovviamente anche per le intolleranze più frequenti, latte, frumento e lievito. E quindi abbiamo uno strumento facile, semplice, assolutamente non costoso, che ci consente di provare piacere, e non lo usiamo. No, dai, Nicoletta, bisogna indurre, allora, tutti i nostri ascoltatori a gestirlo. Mastichiamo, questo è il consiglio di oggi. Dottor Speciani, a presto. Grazie tantissimo, e a presto a voi. Nina, ho mangiato troppo e stasera non ceno. Ma se non hai toccato niente. Come niente? Le farfalline all'uovo. Un poco di brodo vegetale. Ma le farfalline all'uovo sono pesantucce. C'è sta l'uovo. C'ho la pancia gonfia. Ti sei mangiato la trippa del signor Centocelle, e questo è il risultato. Poi il signor Centocelle è romano. Teniamo il vicino romano, io non mi mangio la trippa. E come faccio, maggiore dei carabinieri, con la pancia? Altro che trippa, a volte ci vuole molto meno per avvertire quel peso sullo stomaco, e noi diciamo che peso, non ho fame, ho mangiato troppo, non digerisco niente, mi resta tutto sullo stomaco, ho la pancia gonfia, mi brucia un po' qui. Chissà quante volte avete detto, vi siete sentite dire queste cose. A volte digeriamo male perché mangiamo male, di fretta, senza masticare, ma in alcuni casi lo stile di vita non c'entra, c'entra solo parzialmente, e la cattiva digestione, quella che noi definiamo così, è il sintomo, la spia che ci segnala che qualcosa non funziona a dovere o deve essere messo un po' a punto. Oggi abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi il dottor Emanuele Meroni, direttore della struttura complessa di endoscopia diagnostica e chirurgia endoscopica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a tutti, bentrovati. Dottore, digestione difficile. Difficile per noi perché si fa fatica a digerire, ma anche difficile per voi, immagino, medici, perché per capire esattamente la causa di questo disturbo ci vuole un po' di pazienza, un po' di ingegno. Assolutamente, pazienza, ingegno, tempo per ascoltare la persona che abbiamo davanti, che non ha detto che sia un paziente perché non sappiamo se è malato, ma sicuro è un individuo e come tale merita attenzione, merita ascolto. Anche perché la digestione è un evento molto complesso che implica parecchie azioni, schematicamente è il frutto di un'azione meccanica che il nostro apparato digerente esercita e di un'azione chimica. È un po' come una lavatrice in cui c'è il cestello che si agita e il detersivo che pulisce i panni. Questa della lavatrice è molto carina. E quindi è un mix. Ora, può essere il meccanismo del cestello che non funziona pur avendo il detersivo, oppure il detersivo che è scadente pur avendo un'azione meccanica. Quindi, quando uno dei due meccanismi si inceppa, quale che sia la causa, il risultato è quello che noi in gergo diciamo dispepsia, che è un parolone, ma significa esattamente tutto questo. La dispepsia è questo dolore di pancia cronico, ricorrente, o talvolta questo fastidio, questa sensazione di tensione addominale, di solito nella parte alta della pancia, cioè nel quadrante superiore dell'addome, che dura da un po', cioè perché a tutti può capitare transitoriamente, ma diciamo che da almeno 2 o 3 mesi che ci ammorba, quando può interferire anche con la nostra vita di relazione, cioè occupa anche un quarto, metà della nostra giornata, e con un'evidenza spesso di esami, negativi. Allora che si fa? 800 24 00 24, se volete parlare della vostra digestione, che a volte può essere difficile, a volte invece funziona perfettamente, segno che mastichiamo bene, ci alimentiamo in modo corretto e soprattutto mangiamo anche nella posizione corretta, perché anche questo, dottore, assolutamente conta. Sì, siccome i tempi dell'antica Roma sono finiti, e diceva prima digestio fit in ore, è vero, dicevano i romani, quindi però anche il triclinio non va mica tanto bene, perché la posizione retta per mangiare è fondamentale. Questo apre altri capitoli, quello del reflusso gastroesofageo, che è un sottocapitolo di una cattiva digestione, perché una persona che digerisce male si espone più facilmente al reflusso di ciò che ancora parcheggia in stomaco. Però sicuramente una posizione corretta durante l'alimentazione e soprattutto dopo, perché con la vita sedentaria che facciamo magari mangiamo in qualche maniera e molti poi ci sediamo subito. Molti di noi mangiano in piedi, ad esempio al bar, un panino, adesso non ci occupiamo del panino in sé, ma proprio del modo in cui noi consumiamo i nostri pasti. Troppo di corsa, buttati giù, senza masticare, e in mezzo inseriamo la pausa pranzo spesso tra mille altre cose che dobbiamo fare, e quindi tutto questo ha un peso sul nostro stomaco, si trasforma in quel mattoncino che alle 5 del pomeriggio, nonostante abbiamo magari pranzato all'una, ci fa sentire ancora un po' senza fame, senza desiderio, abbiamo bisogno di prendere un tè, proviamo con il caffè. A proposito, funzionano? Sì, funzionano soprattutto le bevande calde, in questa logica anche le tisane dopo cena, che è un po' un rito, funzionano perché comunque questo caldo che viene portato in stomaco ha un'azione di rilasciamento sulla muscolatura dello stomaco, che spesso invece come frutto dello stress è contratto come un crampo muscolare. È un po' come il discorso di mangiare in piedi, non è il mangiare in piedi quanto il modo in cui si mangia, in qualche maniera si mastica, in qualche maniera averceli i denti, perché oggi è un lusso anche avere i denti a posto, e il risultato poi è quello. Ci sono persone però, dottore, che digeriscono le pietre, come si dice, altre a cui basta un soffrittino per girarsi tutta la notte nel letto. Perché questa differenza? E perché dipende molto dallo stile di vita, dipende anzitutto dalle pietre che uno mangia, perché ci sono le pietre più digeribili e quelle che no. Ma poi, come dicevo prima, bisognerebbe analizzare nel dettaglio lo stile di vita, che va dallo stato d'animo, perché la digestione è influenzata anche dal cervello, dalle condizioni ambientali, se fa troppo freddo, perché il freddo di per sé non ha un'azione che facilita la digestione, dipende da quanto funzionano bene tutti i meccanismi. Dipende spesso da malattie di base che uno ha. È noto che il diabete di lunga data, l'insufficienza renale, è veramente un fenomeno complesso. E noi andiamo a Lucca, splendida città. Io, Dino, buongiorno. Buongiorno, salve. Una domanda. Sì. La digestione, diciamo, non è un mio problema, perché digerisco le pietre, come dici. Bravo, Dino. Però, diciamo, soffro di gastrite, vita molto stressata, di corsa e così via, e soffro di gastrite. Perché lei dice soffro di gastrite? Perché nel senso, l'ho provato nel passato, dallo stomaco, a volte anche un dolore retrosternale, e feci anche una visita e mi disse che era gastrite e così via. Però questo ultimamente mi comporta anche, però non so se è legato, anche una sensazione di bruciore allo stomaco e mancanza di respiro. Non so se queste cose sono legate oppure no. Specialmente nei periodi di particolare stress, in cui magari mangio anche davanti al computer o cose del genere. Vede. Dottor Meroni. Certo che sono legate, sicuramente quel dolore che lei molto appropriatamente ha definito retrosternale è probabilmente legato anche a episodi di reflusso gastroesofageo, cioè quel qualcosa che non digerisce, o anche l'acidità che lei continua a stimolare, perché il suo stomaco a modo suo cerca di rispondere producendo più acido, questo ritorna verso l'alto, le dà questo disturbo. Una parola vorrei spendere a favore della diagnosi di gastrite, che sia veramente gastrite, cioè qualche accertamento diagnostico quando il sintomo, il disturbo perdura, permane da parecchio tempo, forse varrebbe la pena di farlo. Permane da parecchio tempo? Che significa? Almeno, diciamo, 3 mesi, quando con quel minimo di automedicazione che uno poi impara a fare, perché disturbi transitori di 1 settimana, 2 settimane sono plausibili e quindi si può anche ricorrere all'automedicazione. Quando il disturbo però non passa, è persistente, meglio sentire un medico, uno specialista e fare qualche accertamento in più. Signor Policarpo, prego, favorisca. No. Papà, prego. Ha pranzato? No. Papà, no! Già me l'hai detto, non mi sono mai piaciuti. Allora carciofini, prosciutto. Il prosciutto? Prosciutto e carciofini, eh? E avanti, se faccia coraggio. E tiri giù, no? L'abbiamo messi sott'olio noi, sai che segrete? Massaggi, sentirà che roba, cibo genuino. E andiamo, gli dia sotto. A volte non digeriamo perché li diamo proprio troppo sotto, mangiamo troppo. Sta di fatto che però ci sono degli alimenti che ci disturbano un po'. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno dottor Ongaro, bentornato. Buongiorno a tutti. Senta dottor Ongaro, ci sono degli alimenti che sono difficili da digerire in generale? Penso, che ne so, aglio, cipolla, soffritti, o nessun alimento in sé è difficile da digerire, ma conta la sensibilità di ciascuno? Beh, insomma, io credo che conti la sensibilità di ognuno di noi. In un organismo sano ed efficiente, i cibi, il più soprattutto naturali possibili, in genere sono digeribili. È chiaro che noi abbiamo una quantità enorme di cibi invece molto elaborati, molto raffinati, arricchiti di ogni genere di sostanza, che appesantiscono i processi digestivi, perché ovviamente il nostro apparato gastrointestinale non è fatto per quel tipo di cibo. Poi ci sono anche delle associazioni che in alcuni soggetti possono risultare un po' più complicate, come le proteine assieme ai cibi ricchi di amidi, che è stato poi un po' anni fa il principio della dieta dissociata, quindi no, separare la pasta, il pane, il riso dalla carne, dal pesce e dalle uova, ma anche le combinazioni per esempio di proteine di tipo diversi, come per esempio i legumi assieme alle uova o al formaggio, la carne e il formaggio, e da ultimo cosa molto frequente è l'utilizzo della frutta e dei dolci, che a fine pasto in genere provocano un po' una sorta di rallentamento della digestione dell'intero pasto, ecco. Però credo che sia alla fine anche molto una questione soggettiva. Dottor Ongaro, andiamo con la nutrigenomica. Che cosa suggerisce la nutrigenomica ad una persona per continuare a digerire bene? Vogliamo metterla in positivo? Mettiamola in positivo. Devo dire che la nutrigenomica, insomma, ricordiamo questa disciplina che cerca di comprendere a livello molecolare e cellulare l'effetto dei nutrienti, insiste molto su una cosa alla fine molto semplice, che è quella di mangiare in maniera più naturale possibile, cioè cercando di ritrovare il gusto di utilizzare degli alimenti che siano naturali, e quindi molta verdura, quindi le proteine animali di buona qualità, possibilmente non da allevamenti intensivi, e quindi i cereali di tipo integrale piuttosto che quelli raffinati, limitare al minimo lo zucchero, limitare al minimo i dolci, insomma, ecco, alla ma fine... Dottor Ongaro, tra poco voglio leggervi i miei ascoltatori che mi scrivono troppo carini che cosa gli rimane sullo stomaco. Noi parleremo anche di persone che ci rimangono sullo stomaco, potete raccontarci, dire ad una persona per radio, senza fare nome e cognome, perché vi sta sullo stomaco. Prima voglio chiederle però questo, prima di leggere gli sms. Ci sono degli alimenti che la tradizione popolare suggerisce di consumare in particolari momenti della giornata, ad esempio le arance, no? Non mi ricordo esattamente bene il proverbio, ma si dice che siano d'oro alla mattina, poi mi aiutate voi, a mezzogiorno di bronzo, poi insomma più si va in là più diventano di bronzo. Ecco, questo ci porta a dire che ci sono degli alimenti che andrebbero consumati nella prima parte della giornata, alimenti per pranzo e colazione, e invece preferire altri alla sera? Ma in generale io sottolineerei due cose. La prima è quella che stavate dicendo voi prima, molto importante, che il sistema gastrointestinale è talmente connesso col sistema nervoso che è molto difficile legare una cattiva digestione esclusivamente ad un problema alimentare. Possono essere mille i fattori, compreso la persona con cui si mangia, per dire. Quindi ecco, è veramente... a proposito, con chi non vorreste mai mangiare? Ecco, bravissima. E l'altra cosa è, in generale, la regola che io applico di più con i miei pazienti è quella di insegnargli a ridurre l'introito di cibo, indipendentemente da quello, dalle caratteristiche del cibo, nella seconda parte della giornata. Cioè, noi certamente abbiamo bisogno di più calorie, energie e nutrienti alla mattina che a cena, purtroppo in Italia spesso è invertito. Sì. È chiaro che se si va a letto con il classico boccone sullo stomaco è molto più facile avere problemi di reflusso e di cattiva digestione. Comunque il proverbio, Laura Vanossi me l'ha scritto, dottor Meroni, lei era qua, poteva suggerirmelo: l'arancia al mattino è d'oro, a mezzogiorno d'argento, alla sera di piombo. Di piombo. A me i peperoni restano pesanti, mi tornano sempre su. Come mai? Mi scrive un ascoltatore, che è un po' una sfortuna perché i peperoni sono così buoni. Di che cosa sono ricchi, dottor Ongaro? Sono ricchi di tantissimi antiossidanti, peperoni, di vitamina, compresa la vitamina C, quindi sono degli alimenti importanti. A dire la verità, però, i peperoni sono anche frequentemente dei cibi che danno delle intolleranze, quindi in questi casi può essere che ci sia proprio una reattività individuale nei confronti di quell'alimento. Pizza alla sera, mi scrive Cesare salutandomi, micidiale. Si corre il rischio di essere di passare per antipatici, però io non credo che la pizza sia indispensabile nemmeno di giorno. Voglio dire, la pizza è uno di quegli alimenti che deve rientrare nelle cose rare. Dottor Ongaro, se gustarsi. Mi tocca la pizza, io... lo so, si corre il rischio di creare una rivoluzione. Anche il dottor Meroni lo vedo che sta vacillando, senza pizza. Poi lui è vissuto, genovese, anche certo. Senza focaccia. Senza bella unta, calda, bollente. Sì, magari pranzo, perché a cena... Esatto. Il senza, non diciamolo mai. Ma la consapevolezza che non sono dei cibi che devono essere centrali nella nostra nutrizione, devono far parte di quelle eccezioni che ci concediamo anche per goderci la vita, senz'altro. Grazie, dottor Ongaro, noi ci sentiamo presto, magari ci vediamo per una pizza, va. Essere e benessere. Quando qualcosa ci resta sullo stomaco, può essere qualcosa, può essere anche qualcuno, e già voi me lo state scrivendo al 349-238-6666. D'altra parte, dottor Meroni, è vero, quando una persona che abbiamo a mangiare con una persona... Pericolosissimo. Le cosiddette colazioni di lavoro, secondo me, hanno decretato la fine della digestione. Luisa, buongiorno a lei, dalla provincia di Treviso. Luisa? Non c'è più. Franco invece da Padova. Buongiorno Franco. Buongiorno Nicoletta, sono molto emozionato perché è la prima volta che parlo. Oh Franco, ma lei ha una bellissima voce, quindi sì. Vada sicuro. io ho diversi problemi di digestione, però ho trovato un sistema per poter digerire i peperoni e i cetrioli. Quelli crudi, moglie... che non si digeriscono mai, vero? Mai. Allora, la moglie me li faceva in qualsiasi modo, gli toglieva la buccia e seguito. E allora ho trovato questo sistema qua, mi siedo a tavola e comincio a mangiare subito per primo i peperoni e poi altre volte i cetrioli e poi li affugo nei spaghetti. Ah, brevettiamolo, Franco, bisogna brevettarlo. Sentiamo se il dottor Meroni si vede che con questo abbinamento l'approccio si vede scientifico che consiste nel valutare dei risultati, se sono riproducibili, perché la metodologia scientifica è questa, se sono riproducibili vediamo. Allora Franco, facciamo così, lanciamo questo suo metodo ai nostri ascoltatori che non digeriscono peperoni e cetrioli. Provate a seguire la ricetta di Franco, affogateli, cioè affogateli tra virgolette, giusto Franco? Dopo mangiate i primi peperoni nei cetrioli e subito dopo un bel piatto di pasta. Nicoletta, tipo buffet. Tipo buffet. Poi dopo mi mangio anche la carne delle volte o quello che c'è, il pesce, però io diciamo che li digerisco tranquillamente, non mi stanno più ore e ore lì su e giù. Il trucco sembrerebbe mangiarli per prima, un po' come facciamo con le situazioni che un po' ci stanno sullo stomaco. Le affrontiamo subito. Ecco. Grazie Franco per questo bel suggerimento. Ma io vorrei sapere, Luisa dalla provincia di Treviso, c'è o non c'è? Buongiorno. Luisa, dov'era? Sì, sono raccaduta la linea. Buongiorno. Buongiorno a voi, io volevo porre un quesito. Mi capita con alcuni alimenti di avere problemi di digestione con baricentro spostato, ossia l'emicrania. Ho capito, no, ho detto mamma mia, povero dottor Meroni, chissà cosa gli tocca. Invece no, questo è un classico, uno ha il peso sullo stomaco e poi il peso arriva in testa e hai il cerchio alla testa. Esatto, ecco, diciamo che io salto il passaggio dello stomaco, nel senso che digerisco da quel punto di vista lì piuttosto bene, non ho fastidi. Però lei digerisce con la testa quasi, no? Perché se qualche cosa le sta sullo stomaco, somatizza a livello della testa con una cefalea. Dottor Meroni. Questo è verissimo, il rapporto tra cefalea e digestione è molto complesso, articolato, ci sono dei cibi che potenzialmente danno mal di testa, cefalea, soprattutto per chi soffre di emicranie, si sa che il parmigiano piuttosto che il vino rosso, oramai chi ne soffre lo sa, scatenano delle crisi di cefalea. Altre volte è semplicemente espressione di una digestione lenta, difficoltosa, che poi comunque dà anche sonnolenza, perché nella digestione la maggior parte del sangue viene sequestrata nel distretto, diciamo, splancnico, cioè attorno ai visci. È difficile questa parola, ho visto che sgranava gli occhi Nicoletta. Comunque il sangue come viene nel distretto splancnico. Splancnico, ma è ogni anche... Ogni tanto mi scappa il termine medico, scusate. No, voglio dire, scusate, è anche cacofonica. Sì. A proposito di digestione. Esatto, e quindi di... sta male. Sì. Allora il sangue va alla pancia, anziché alla testa va alla pancia. E quindi venendo meno alla testa, questo spiega anche questa sonnolenza che si ha, perché naturalmente l'abbiocco postprandiale è un classico. Io sono esperto in questo. E che più avanti vai, più ti trovi di fronte a certi cipolloni. Mangiare, mangiare per non morire, ma digerire, digerire. Fate tutto facile voi. La mia vita è piena di cipolle, anche lo stomaco non fa in tempo. Cipolla scuola, cipolla lavoro, cipolla sesso, dai, mangiare, giù! Mangiare per non morire, ma digerire, digerire. Va bene, scuola, lavoro, sesso, posso anche digerirli, che poi c'è da vedere. Ma con la cipolla esistenza, come la mettiamo? Con la cipolla esistenza, come... ci suggeriva Gaber, come la mettiamo? Cipolla, dottor Meroni. Cipolla fa benissimo per tante cose, ma per me parlare di cipolla ha un richiamo immediato al reflusso, ne abbiamo accennato più e più volte, salta fuori come un folletto questo problema. Il reflusso gastroesofageo spesso è scatenato, oltre che da altri alimenti, anche dalla cipolla, soprattutto se poi c'è un soffritto, perché poi la cipolla, non tutti hanno l'eroismo di mangiarla cruda, spesso utilizzata. Che buonissima, affettata, cruda, alla cipolla, focaccia con le cipolle. Ma noi vogliamo parlare anche di tutti quei cipolloni, intese situazioni pesanti, che appesantiscono la nostra vita. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Sara Viola. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Medica e psicoterapeuta. Andiamo di cipolla? Allora, quanti cipolloni abbiamo nella vita che rendono la nostra vita, la nostra digestione anche difficile? Perché sono proprio difficili da digerire loro, situazioni, persone, cose che non vanno bene, speranze disattese, disilluse. Assolutamente, noi abbiamo un sacco di pietanze indigeste durante la nostra giornata, però io vorrei fare subito il guardafeste e dire che molte delle nostre cipollone quotidiane siamo noi a non riuscire a metabolizzarle e a digerirle, cioè ci mettiamo in una posizione che ce le rende ancora più pesanti. Il difetto principale dell'essere umano credo sia proprio quello di non vedere o di fare molta fatica a vedere le possibilità di cambiamento, cioè le possibilità di guardare una situazione da altri punti di vista. Noi siamo dominati dalla coazione a ripetere, per cui quello che non va sul lavoro, quello che non va nei rapporti interpersonali, noi continuiamo ad affrontarlo sempre allo stesso modo, magari subendolo, magari continuando a starci male, ma facciamo una grande fatica a cercare di spostarci, come diceva Lacan, spostiamoci dalla posizione dove siamo, mettiamoci il nostro zainetto sulle spalle e vediamo di digerire la cosa vista da un altro punto di vista. Questa mi sembra un'ottima indicazione, dottor Meroni, è un po' come, no, il consiglio che potete dare voi come medici quando una persona ha un problema, che viene a raccontarvi un suo problema di salute, e questo investe un po' tutta la sfera. Infatti è fondamentale quel tempo, quell'attenzione dedicata al paziente, perché talvolta dopo mezz'ora di colloquio emerge quel dettaglio apparentemente insignificante che però è la chiave di lettura e si ribalta completamente la diagnosi. Certo. Quindi dottoressa Viola, il consiglio per rendere digeribili anche i cipolloni più indigesti è, se vogliamo, cucinarli in altro modo, assaporarli in altro modo, per tenere un paragone con la cucina. Troviamo un'altra ricetta, troviamo degli ingredienti diversi e sicuramente la situazione cambierà sapore. Grazie dottoressa Viola per essere stata con noi. Grazie. Buona a voi. Giornata. Buon lavoro a tutti. Sauro dalla provincia di Pistoia. Buongiorno Sauro. Buongiorno a tutti voi e grazie per la trasmissione. Grazie a lei. La mia domanda è questa. Da un po' di tempo, circa un mesetto e mezzo, ho una sempre, costantemente, quasi costantemente durante il giorno, perché la notte dormo, non me ne accorgo, probabilmente anche la notte, ho una leggera nausea e poi ho preso anche un dolore sulla bocca e lo stomaco, praticamente all'altezza del diaframma. Ho fatto la gastroscopia, il risultato è una leggera gastrite superficiale e una piccola ernia iatale. Sì. La tiroide, perché soffro un po' di ipotiroidismo, però è normale, tutto a posto. Ho fatto l'eco all'addome completo, tutto a posto. Insomma, fatto sta che però io ho sempre questa leggera nausea. Come diceva Sauro, come diceva il dottor Meroni, ci sono delle persone che sono ansioso, aggiungeva, fanno tutti gli esami e ogni tanto bisogna farli, non troppi, non spesso. Sì, e direi che questa telefonata è proprio utilissima, perché signor Sauro è emblematico di una situazione che frequentemente noi vediamo in ambulatorio. Paziente che ha esami fondamentalmente normali, ha fatto gli esami che comunemente rappresentano già un approfondimento diagnostico, cioè la gastroscopia, l'ecografia. Eppure il paziente non digerisce. E questa è quella che, di nuovo, adesso spendo un altro parolone, si chiama una dispepsia motoria o funzionale. Questo, cioè, è più facile, più questo facile, lo sappiamo. Più intuibile anche. Dispepsia, abbiamo imparato prima, che cos'è? Motoria vuol dire che lo stomaco si muove male o non si muove. Di nuovo, le cause possono essere molteplici. In certe gastriti, persino la presenza di quell'intruso che da un po' di anni oramai conosciamo, che si chiama Helicobacter pylori, può dire la sua, quindi può influire sia nel condizionare la gastrite sia nell'alterare un po' la motilità. E quando poi non si trova però nessun'altra causa e si sono escluse delle malattie sistemiche importanti, perché questo, come dicevo, certo, un paziente che ha un'insufficienza renale cronica in uno stato di uremia alta, c'è comunque una nausea. Certo. Allora, un paziente che sta bene agli ma ha un po' di nausea, a questo punto si passa alla terapia ex adiuvantibus questa è difficile anche. Va bene, ma noi... si passi. Si prescrive una cura con dei farmaci cosiddetti procinetici, cioè che aiutano la motilità, e magari un pizzico di farmaci che abbattono l'acidità, perché mi pare di aver capito che il nostro ascoltatore aveva anche un problema di reflusso, perché è ovvio che se lo stomaco non si muove, non scarica il contenuto. Insomma, dei farmaci che lo aiutano quando i farmaci servono, ma attenzione al fai da te. Essere e benessere. Lo sai perché la gente s'arrovella e dice che la vita non è bella? Perché gli tocca de campate corsa, è stretta in una morsa, non c'ha più il tempo per la pennichella. Ossia quella mezz'ora di dormita che se faceva nonno, la quale dentro il treno della vita è il supplemento rapido del sonno. Dedicato agli amanti della pennichella, dottor Meroni, anche lei è un fa parte del pennichella fans. Sì, non la amo, ma ne sono vittima. Quando la allora, un po' di sonno dopo i pasti, dopo il pranzo. Quando la digestione è soprattutto normale. Laboriosa, è inevitabile, anche perché tutti, bene o male, siamo in debito di sonno, di ore di sonno. Quindi è chiaro che quando il sangue viene richiamato in quel famoso distretto di cui parlavo prima, viene sonno. Un po' di sonno va bene, quei 20 minuti fisiologici per togliersi di dosso la grossa stanchezza, soprattutto se poi dobbiamo metterci al volante. Certo. È auspicabile. Però che lo se la sonnolenza arriva a metà pomeriggio, non riusciamo proprio a scrollarcela di dosso, questo può essere considerato un sintomo di digestione lenta. È un indizio, questo è molto importante da non trascurare. Mauro da Lecce, buongiorno. Buongiorno. La fa la pennichellina lei? Io sì, volevo chiedere al dottore, praticamente, magari dopo aver finito di mangiare, fare la pennichella, a volte, dopo che mi sveglio, succede che, sa, come vedessi dei cerchietti, no? Come mostrano nei cartoni animati, i cerchietti, quindi non lo so, è causa di una cattiva digestione, è causa magari di qualcos'altro. Ma lei vede i cerchietti proprio come nei fumetti? Ma certo, insomma, che siete fossero colorati, ma così. Insomma, un risveglio a colori. Mauro, lei è troppo carino. mi vedo Mauro che si alza assonnato con i cerchietti, dottore. È interessante, ne prendo atto. Però la digestione non ha a che fare nulla. C'entra poco. Grazie Paolo. Grazie. Ci risvegliamo con lei. Paolo, un altro Paolo da Firenze. Buongiorno. Grazie a Mauro e buongiorno a Paolo. Sì, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Dunque, io ho chiamato perché io ho un po' tutte queste cose, nel senso che sembrerebbe un ennaiatare, sembrerebbe insomma, un reflusso. Il problema è che l'esofago gastroduodenoscopia la devo fare, ci vogliono 6 mesi in lista da noi. Però poi sono andato da un mio amico che è praticamente naturopata e mi ha detto francamente che lui, in base agli strumenti e quello che ha misurato, è solamente una semplice candida che abbiamo nello stomaco. E me la sta curando in quella maniera, togliendo un po' tutto quello che dà fastidio, cioè vari cibi, io effettivamente in sta circa meglio. 20 giorni è passato tutto, non meglio, tutto. Tutto, Paolo. Paolo ha risolto con l'amico naturopata, però la diagnosi, diceva Paolo, è così difficile? Cioè, però il reflusso è facile da diagnosticare, reflusso, o avete delle difficoltà? No, il reflusso è facile, standardizzato. Altro è il problema di cui giustamente fa menzione il nostro ascoltatore, cioè delle liste di attesa. Ma l'Italia è grande, nel senso che c'è posto da una parte, c'è posto da un'altra. Si può fare questo cambio regione? O cambio regione sicuramente, o più semplicemente cambio ospedale, perché la diagnosi è importante, sa, non soltanto per capire se lei ha o non ha l'ernia iattale, ma perché un reflusso trascurato può nascondere un'esofagite, cioè un'infiammazione dell'esofago, che deve essere invece caratterizzata, deve essere conosciuta. Sulla candida ci sono situazioni che possono portare alla presenza di candide in esofago, un trattamento con il cortisone. Quella che noi diciamo il mughetto nei bambini. Brava, però la candida noi la ospitiamo abitualmente, è nostra ospite. Salta fuori, mi passi il termine, salta fuori in maniera più esuberante quando ci sono delle condizioni predisponenti, quando c'è un abbassamento delle difese immunitarie, per esempio nei pazienti... Tira un po' sulla cresta questa candida, se ne approfitta. Sì. Bruna, buongiorno, dalla provincia di Vicenza, ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Ce la facciamo, Bruna, velocissimo che buongiorno, devo... Buongiorno, velocissima. è possibile che di notte dallo stomaco venga la tosse? Perché io ho un problema infinito, non riesco a dormire. Cioè, verso l'una... Di tosse parlavamo proprio ieri e il dottor Arari diceva molte spesso le persone dopo che hanno tosse non fanno la spirometria e questo servirebbe per diagnosticare l'asma che spesso viene, no? non viene individuata. Ma quando è notturna potrebbe anche essere, non è detto, il famigerato reflusso. Sa quanti pneumologi o quanti otorinolaringoiatri poi ci riferiscono pazienti per un problema di reflusso diagnosticato dai sintomi non digestivi ma respiratori, sintomi alti, perché di notte quando uno si corica inala il contenuto gastrico o l'acido scivola nei bronchi, irrita i bronchi e questo dà uno stato di bronchite cronica, di irritazione, quindi la tosse e altri disturbi. Non è detto che tutte le tossi notturne siano da reflusso, ma un campanellino, un'idea potrebbe venire. Esatto, la pulce nell'orecchio deve metterla. Vogliamo in mezzo minuto dire perché è importante non automedicarsi, dottor Meroni, perché la digestione... Tutti noi, no? Pensiamo, ciascuno è medico di se stesso, però abbiamo il bruciore di stomaco, il peso allo stomaco, iniziamo a prendere pastiglie, pastigliette, sciroppini. È importante. A me non piace questa cosa qua, anche perché i rischi sono alti. Certo, quando soprattutto questa abitudine si protrae per troppo tempo. Primo perché si possono mascherare dei disturbi, dei sintomi e rendere ancora più difficile l'indagine poi del medico. Ci sono gli indizi che vengono mascherati e quindi... Secondo, perché comunque devono essere presi come tali, come sintomi. I sintomi non vanno mai trascurati. Il nostro corpo parla, chiaramente ci vuole poi l'interprete e quindi bisogna capire prima di ricorrere ai rimedi. Non mettiamogli il bavaglio allora, lasciamolo parlare, ascoltiamolo. Mi sta andando via la voce, chissà. Reflusso. Grazie al dottor Meroni per essere stato con noi. Grazie a voi. Una mail di Ambra: il mio prozio medico novantenne un tempo ai giovinotti con un'esplicabile nausea diceva cambia Murusa. Ambra, a domani. Essere e benessere.